sei, ed un figlio cui ha dato il nome Elvis. Ho una stella su cui vive, su cui tutto quanto è sile, su cui tutto quanto è sotto il marchio Elvis. Ho una donna lì vicino che lo fa sentir qualcuno, anche se non saprà mai che cos'è Elvis. Brucia, brucia la candela, brucia dai due lati, brucia prima di una luce un po' più viva e di più. Un tatuaggio sulla spalla, ho scritto il rock non mi molla, mentre quello sopra il cuore dice Elvis. Ha una fibra originale che dice di saper suonare, ma che viene buona per suo figlio Elvis. Sempre occhiali scuri dietro cui non si sa mai se piange o ride, come non si sa di Elvis. Brucia, brucia la candela, brucia dai due lati, brucia prima di una luce un po'.